感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏歌剧中的著名选曲，曲目有《女人善变》《爱情天使》《我亲爱的爸爸》《今夜无人入睡》《晴朗的一天》《冰凉的小手》《多么美丽的姑娘》，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯、萨瑟兰、派巴尔迪、霍华德等演唱。 bella figlia dell'amore, Thank you. Adorno. Curioso. Dammi il braccio, mia piccina. Thank you. purezze del mafio da resto. La la la la la la la la la la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo figlio, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la. Oh, tu bravissimo per me, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per merito, fortunatissimo per merito. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il giorno sempre d'intorno in giro sta, mille cuccagni per un barbiere, di più novena non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, o la sanguigna, resti mi chiedono, chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la fanciulla, questa la barba, resti mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Ohimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro? Son qua. E Figaro? Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Sono tantissime, sono con le forme, nessuna tracca. Dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Arrivo Figaro, bravo bravissimo, arrivo Figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Arrivo Figaro, bravo bravissimo, arrivo Figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Sarà il peccato della città, sarà il peccato della